24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Sapete, è stato presentato un progetto di candidatura di Roma ai Giochi Olimpici del 2020. Il governo non ritiene che sarebbe responsabile, nelle attuali condizioni dell'Italia, di assumere questo impegno. Annuncio che assieme al CONI saremo a fianco perché da qui al settembre del 2015 l'Italia presenti la propria candidatura ai Giochi Olimpici del 2024. Ma anche se l'avessero proposta a Torino, visto che ci sono ancora i palazzoni e le piste del Bob. Una follia in Italia in questo momento. Mi sembra tanto un'altra menata come gli 80 euro. Avremo la struttura più all'avanguardia del mondo perché il Made in Italy è anche questo. Saremo all'avanguardia su tutte le strutture tecniche dal punto di vista del controllo della spesa. Io personalmente da italiano mi auguro che ci possa essere una cosa del genere, anche perché nel frattempo si può anche fare qualche struttura carceraria in più. L'Olimpiadi a Roma, oppure di avere qualche struttura carceraria che non si riesce mai ad avere, facciamoci pure l'Olimpiadi. L'ultimo era Di Pietro qui ieri da noi. Attrezziamoci per le Olimpiadi costruendo nuove carceri. Poi ha detto anche, facciamo a Genova la canoa. Ah, ma dove? Per le strade. Era un Torino Di Pietro scatenato, ieri. Non sapete sognare. Guardate invece lì Renzi che ci dice le Olimpiadi, non sapete sognare. Che bello vedere le Olimpiadi qui, atleti da tutto il mondo, No, non è bello. Ma poi questa cosa che non sapremmo fare un evento del genere senza corruzione, ma in tutto il mondo, oggi i giornali raccontano che Olimpiade che vai, corruzione che trovi, ovunque. Allora bisognerebbe eliminarle le Olimpiadi a questo punto, anche in America, quando furono ad Atlanta, no, i soldi della Coca-Cola, ma anche a Salt Lake City hanno corrotto dei giudici ma forse anche le prossime a Rio de Janeiro avranno fatto qualche roba losca, no, per prenderle. Allora aboliamole, insomma, tanto voglio dire. Vabbè, come sapete questa è 24 mattino, buongiorno intanto, buongiorno a tutti. Cos'è, momenti di gloria, che ti vedi lì correre verso il bagno, uscendo dal letto caldo, Cari debosciati, forza che sono le 6:31 addirittura, C'è Paolo Corleone in regia. L'alpino l'avete rottamato? No. C'è Lorenzo non gliela fa più. Ma che? Vabbè. Ma come, gli abbiamo messo momenti di gloria? Pompa momenti di gloria per l'alpino. C'è anche Lorenzo Nespoli in redazione e possiamo aprire il Parlamento? Adesso va vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Eccoci qua, non sapete sognare. Mario Adinolfi, tu sai sognare, Marione? Ale, buongiorno, Roma, Roma, Roma, che bello, eh? Che bello. La mia città, sono molto felice che le avremo e vinceremo pure la faccia di voi cupi, insomma, ecco, per cui... Forse ce l'hai con Aurorona Lussana, la mia direttorissima, la mia direttorissima, che sicuramente sarà lì a dire che... Ma d'altronde Salvini ha dato la linea, la linea, ha dettato la linea. Salvini traccia solco e la direttorissima la difende. Allora, no, un caro saluto a te, come sempre, Mina, un caro saluto a tutti, padani e nonna. Cos'è che stai ascoltando? Mi sto rivedendo un Nessuno, tutte le lezioni di Romano Prodi sull'euro, il miracolo economico dell'euro. Cos'è che stai vedendo su Uni-Nettuno? Sì, Uni-Nettuno. Tutte le lezioni. Cioè, sì, sei una dei 12 nell'epoca dell'euro. Una dei 12 miracolo economico, sì. Tutte le lezioni di Romano Prodi su il miracolo dell'euro, lo trovi, il professor Romano Prodi. Sto studiando. Ma senti, ma è veramente Prodi? Questo è un altro evento che Prodi come la moneta. Ma non ci credo. Ma in questo momento è su Uni-Nettuno. Ma quanti spettatori saranno? 12 con te? Non... No, ma mi sono proprio fatta mandare a casa le dispensine. Ah, le dispensine, hai capito, Adinolfi? Che non sta bene la Lussana, ridategli il giornale, fategli fare qualcosa. Tanto non ci cucina più, non c'è più la ricetta. Quindi no, infatti. Invece cucinare, guarda, sono 3 settimane che non ci dà la ricetta. No, perché non voglio dimenticare le puttanate che diceva, quindi ecco la subita lì con Prodi, padrino dell'euro. Il padrino dell'euro, vabbè, ma ci arriviamo a Prodi. Prima dimmi la tua sulle Olimpiadi, forza, dai, Roma, le Olimpiadi, rilanciamoci, sogniamo. Allora, sono stata a Olimpia, una meraviglia, una città quasi mistica, giù in Grecia, che le faccia la Grecia, le Olimpiadi, le inventate la Grecia. Le ha già fatte. No, e io amo la cultura greca e non voglio depredare un popolo. Già gli ha rubato tutto, le metope del Partenone, che sono... Ecco, lasciamogli questa meraviglia che sono le Olimpiadi alla Grecia. 10 anni fa, nel 2004, l'hanno celebrate loro, è stato l'inizio della fine. Niente, poi... è una guffa. Anche perché io sono stato Olimpia sono 4 sassi, quindi insomma una cosa... ma quale città mistica? È mistica perché devi fare una salita maledetta per ritornare a Pullman, è una cosa terrificante. Te la ricordi ancora? Angelo Gabrielli, lo ricordo benissimo, per vedere 4 sassi in croce, francamente, insomma. Roma e la sua maestà, diciamo così. No, Roma ci ha rubato alla Grecia la cultura, la filosofia, tutti i termini, l'etimologia più alta. L'abbiamo presa un po' da lontano oggi. Oggi l'abbiamo presa un pochino da lontano, come si suol dire, con una disfida tra Roma antica e Grecia antica. Però no, Mario, adesso queste Olimpiadi, vogliamo dire qualcosa di serio? Cioè, io sono convinto che sia una grande opportunità per l'Italia, e poi non sopporto sto paese che si deve sempre dare, insomma, addosso in una maniera vergognosa. Io trovo che sia una grandissima intuizione, tra l'altro c'è proprio lo spazio per vincere, cioè la candidatura del 2024 ha forti probabilità di vittoria. Ma perché? Una sola per ragioni, diciamo, di CIO, insomma, di Comitato Olimpico, gli equilibri fanno sì che sia sostanzialmente molto debole l'alternativa in questo momento. Quindi Roma, se ovviamente ha il Paese Unito dietro, può farcela. Chiaro che se noi ci massacriamo e la prima settimana sembra essere quella, insomma, in cui lasceranno tutti questi distinguo, facciamo un errore. Cioè, dal punto di vista della anche idea di rinascere l'Italia, l'idea che nel 2024 possiamo avere un evento, cioè non domani, ma nel 2024 un evento che possa essere volano di un traino di economia che riparte, io sono una grande guffa, hai sentito, ma guffa? Perché no? Ma qual perché è il problema? No, ma infatti, perché rubiamo a priori? Cioè, vediamo, non so. Aurora, perché no? Perché siamo dei ladri corrotti, patentati, e che quindi ci sono tutte le inchieste, ci saranno come dovunque si fanno le Olimpiadi? Ma no, ma perché non sappiamo ancora se c'è un sistema economico nel nostro paese nel 2024. Ma che c'entra? Prima, allora aboliamo le Olimpiadi del 2024. Allora, ma è un paese desertificato dal punto di vista produttivo, industriale. Ma te quelle robe lì le fa, che sono una meraviglia, le fai quando va tutto bene, che fa da traino tutto, non quando... Ah, perché sai, a Rio de Janeiro va tutto bene, perché non lo so. Vabbè, ho capito, ma va che giù in Brasile cresco mica da ridere, cioè, nel senso, noi facciamo fatica ormai a far tutto, una fatica immensa. Quindi figurati le Olimpiadi. Ma no, ma come si fa? Ma allora, rilanciamo il sistema economico produttivo e poi le facciamo... Ti mettiamo anche nel comitato promotore, se vuoi, un posticino nel comitato Adinolfi, lo troviamo la Lussana. Possiamo fare l'Expo a Milano, ma non possiamo fare l'Olimpiade a Roma. Ma come funziona questa cosa? L'Expo a Milano sì, perché Maroni... l'Olimpiade a Roma no. Ma non c'era Maroni quando hanno vinto. No, l'Olimpiade a Roma no. Quando a Milano hanno assegnato l'Expo, c'era Maroni. Milano, sarete contenti, immagino, che ci sia l'Expo a Milano, no? La considerate un'occasione per la vostra, per la Lombardia, per la città, boh, e per il paese. Vedremo. Credo che sarà, insomma, 10 volte tanto avere l'Olimpiadi, quindi io farei, come dire, un applauso a chi ci prova e sosterrei con grande enfasi anche una città meravigliosa come Roma che si candida. Ma vi ricordate le Olimpiadi del 60? Io non c'ero, ma insomma sono ancora leggendari, Neanche punto di vista della, ma vedi, hai usato il termine giusto, il termine giusto, serve un po' di enfasi, perché il Renzi un po' giù in agonia ormai in questi giorni qui, ma fa fatica, e cosa c'è di meglio che far sognare un po' la gente con le Olimpiadi? In agonia. Non lo vedo proprio agonizzante, esatto, politici agonizzanti sono altri, però vabbè, comunque, insomma, il dibattito, noi italiani siamo già pronti così a dividerci, sentite Renzi, però Renzi dice partecipiamo per vincere. Dov'è Renzi? Chi lo sa? Sì, partecipiamo per vincere. No, adesso lo troviamo. Renzi che vuole partecipare per vincere. Con tutto il rispetto per De Coubertin, non facciamo questa candidatura per partecipare. Questa candidatura la facciamo per vincere e ci metteremo insieme sicuramente le città che più possono aiutare in questo progetto, a partire dal cerchio vicino a Roma, quindi Firenze, Napoli e la Sardegna. C'è anche Firenze-Napoli, tra l'altro noi avremo alle 8.15 Gigino De Magistris, sindaco di Napoli, Aurora. Sì, sì. Ma no, dai, adesso! Girerò su Radio Padania. Girerai su Radio Padania, ma dai, insomma, ma che mi fai lo sciopero perché è il sindaco di Napoli? Dai! Si chiama obiezione di coscienza, voglio dire, previsto dal nostro ordinamento. Vabbè, ma Marione, che dobbiamo fare? Marione, intanto ci scrivono: com'è possibile che invitate sempre quel talebano, anche aggiunge Ciccione, una cosa che non ti dice mai nessuno, di Adinolfi. Ciccione, l'ho detto. Sì, incredibile. Mi invitate perché io do il mio cellulare in diretta, come nell'appuntamento col traffico. Appunto, vogliamo dare un aggiornamento cellulare. Si chiama strada in diretta, la vostra cosa, strada in diretta. C'è anche cellulare in diretta. Per cui ricordo che al 334 37 98 534, i leoni da tastiera, cioè quelli che scrivono su Twitter, che quando però c'è da dire quattro parole in croce si incartano, diciamo, solitamente, possono dirmi direttamente la loro opinione. 334 37 98 534, il mio cellulare. Sto dando la caccia a quello della Lussana, perché la prossima volta do il suo e voglio vedere pure che succede a lei. Vabbè, ma basta, questa curiosità. Basterebbe chiederlo a me e io te lo fornirei. Faccialo subito, lo puoi fare. Fai la rubrica cellulari in diretta. La potremmo fare ogni giorno, a chi indovina qualcosa, diamo un numero del cellulare di Aurora Lussana. Ma Milan, tu al massimo dai quello della Boschi, dai, che lo sappiamo tutti. No, non ce l'ho il cellulare della Boschi. Guarda come soffre, guarda come patisce il Milan. Ma veramente no, veramente no. Comunque, visto che hai chiamato, ma tu avrai il cellulare della Rossella Brescia, che secondo me vale molto di più. Il cellulare di Rossella Brescia, vale di più. Vabbè, ma neanche a 15 anni si facevano queste cose, anche perché non c'erano i cellulari. Comunque, visto che hai evocato Maria Elena Boschi, ieri Maria Elena Boschi era porta a porta, quindi introduciamo al capitolo politico. Renzi ieri ha incontrato Prodi, che si saranno detti Renzi e Prodi, adesso cercheremo di scoprirlo. Intanto Maria Elena Boschi. Chi sarà il candidato di Renzi al Quirinale? Beh, ovviamente è troppo presto per dirlo, perché non sappiamo quando saremo chiamati a scegliere un successore per Giorgio Napolitano. Per ora abbiamo un grande Presidente della Repubblica che, come abbiamo visto, svolge con grande autorevolezza e con grande passione ancora. Tra l'altro, Aurora, se senti, anche le Z suonano con un suono irripetibile. È irripetibile, cioè è un qualcosa che... Senti, senti, sicuramente senti. Non è un ruolo assente, non è un ruolo anche da coprire esse, in questo certo, momento. Però lei sa. Ecco, dai, Vespa, disturbare questa musica, insomma. Adesso, Marione. Che bella Madonna toscana proprio, mi piace. Che si sono detti Renzi e Prodi? Allora, la stampa dice che Renzi ha detto a Prodi: guarda che c'è un veto di Berlusconi su di te, ma il vero messaggio sarebbe a Berlusconi, come dire, non è che decidi tutto tu, e ai suoi, come dire, non pensate di candidarmi Prodi contro. Marione, che succede ieri? Ma io non credo che su Prodi ci sia la possibilità oggettiva di farlo diventare Presidente della Repubblica, anche se tutti quanti hanno letto questo incontro in funzione quirinalizia. Che altra lettura c'è? Ha parlato politica internazionale. Non è che Prodi non ha proprio nulla da dire, insomma, su tante cose. È interessante comunque sapere se la sua disponibilità c'è, ovviamente sarà una carta che può essere giocata, ma sappiamo come funziona elezioni del Presidente della Repubblica, lo sapete, no? Insomma, c'è bisogno di una maggioranza assoluta, prima qualificata e poi assoluta dei grandi elettori. Secondo me la quota 525 è abbastanza dura per Romano Prodi, sì, anche per logiche interne al Partito Democratico, quindi questa cosa la vedo... Ma a chi parlava Renzi questa cosa? A Berlusconi, come scrive anche Il Secolo, stai attento? La dimensione interna, la questione dentro il PD, perché se il PD fosse compatto come un solo uomo la partita potrebbe diventare interessante, ma io credo che ci siano delle difficoltà interne al PD, perché un pezzo di PD non potrebbe tollerare che quello che non è riuscito a Bersani, cioè fare eleggere Prodi Presidente della Repubblica, perché c'è stata l'operazione di 101, diventi, come dire, la ferita sanata che lo stesso Renzi riesce a sanare. Sì. Quindi secondo me la questione è tutta intra-PD, non nel rapporto con... Capito. Berlusconi non vuole Prodi, insomma. No, ma questa è chiara. Capito, Aurora? È tutta una questione interna. No, è vero, ci sta tutto in tramenia PD, però davvero sarebbe l'ennesimo atto di prevaricazione. Cioè, 2 anni fa il PD ha vinto per delle briciole, vi ricordate? Si sono pigliati tutto, Presidente della Camera, Presidente del Senato, Presidente del Consiglio. Sì. Si prendono adesso anche Presidente della Repubblica, e basta. Ma no, ma non se ne... No. E poi ripeto, il padrino dell'euro, no. Ho capito, ma il Presidente della Repubblica va votato in Parlamento, ci sono delle maggioranze qualificate, non è che uno se lo prende così, non è che se lo compra al supermercato, uno no. O no? Una maggioranza qualificata che poi sì, basta una maggioranza massima. Marione, ma che dobbiamo dire? È l'aritmetica, è una questione, ha ragione su questa Aurora Lussana, c'è una dimensione politica, se vuole, della Presidenza della Repubblica, e io credo che più sarà votato il Presidente della Repubblica, meglio sarà per il Paese. Credo che però non potrà diventare un Presidente della Repubblica contro il PD, quello che sognerebbe Aurora, cioè è difficile che fanno Salvini anche per problemi di età, diciamo, c'è un limite costituzionale, quindi Umberto Bossi. Allora, dato che esiste la realtà, purtroppo Aurora qualche volta dalla osservazione padana, quella realtà la perde. Allora, quella cosa ha a che fare col fatto che comunque il PD conta su più di 400 grandi elettori e volendo insomma arriva tranquillamente da solo. Cioè i nomi e i numeri ce li ha. Ma dov'è sta ridotta, Aurora? Ce lo vuoi dire? Ancora, se siamo in semiclandestinità. Ho capito, semi, dacci un indizio, cosa vedi dalla finestra? Non lo so. La Valtellina. Ai, la ridotta della Valtellina. Vabbè, andiamo al traffico, va, che è meglio. 24 mattino. Le armi della cupola mafiosa, ho visto i servizi sui giornali, le armi. Allora, una spada katana giapponese, un coltello, ma insomma, ma di cosa stanno parlando? Allora se venite a casa mia, io ho i coltelli da cucina, ho anche un katana, allora anch'io, mamma mia, dovrei finire in galera per questo. Ma mi pare che stanno esagerando. D'Alema, vergognati e vattene, vattene, vattene. Signor Milan, sa come si dice dalle mie parti? Chi ha la pancia piena non capisce chi è alla fame. E Renzi mi sembra piuttosto cicciotto. Allora, c'è Adinolfi che prima fa il gradasso a dare il suo numero di cellulare e dopo aver insertato tutti quanti vai su Twitter e minaccia le vie legali per stalking a quelli che lo appellano ciccione di merda. Oh, ma ha proprio la coda di paglia sto tizio qua, eh. Marione, c'è la ma è vera questa cosa? Ciccione di... No, c'è una che ha scritto 4.353 messaggi, ma veramente non ho detto numero a caso, 4.353. Questa la devi conoscere, è una cosa molto disumana anche proprio fisicamente. 4.353, ho ricordato diciamo le caratteristiche legali dello stalking, ma questo ripeto non mi esime ad avere un contatto veramente di abbraccio meraviglioso con un pubblico che mi sta soffocando questo sì, ma con le telefonate. Ti continuano a chiamare, sì, sì. Ovviamente, sì. Anche adesso mentre stavo al telefono saranno arrivate 10 che sento il tic del telefono. Insomma, trovate occupato in questo momento. Spiegate ai geni che stanno telefonando che se chiamano mentre sto in diretta il telefono è occupato. È occupato, sì, ma e che ti però diceva questi? Dopo, l'istante, è chiaro, poi rispondo. Ho capito, ma tu rispondi in genere a tutti? A tutti, rispondendo a tutte le telefonate, devo dire, lo ripeto, che sono sorpreso dalla quantità d'affetto che è arrivata su questo. Il mio esperimento sociologico da questo punto di vista è meraviglioso e suggerisco a voi VIP, che siete VIP davvero, di sperimentarlo, perché vedrete che insomma, il contatto con il ma infatti io sono d'accordo con te, sono d'accordo diciamo, con te. Aurora Lussana 349. Ma io vivo già in mezzo io non ho bisogno, no, non ci siamo proprio. Io non ho bisogno di questi esperimenti sociologici che appartengono a una visione elitaria del reale, perché io quotidianamente vivo in mezzo al pueblo. Al pueblo. No, sai poi perché non lo farei mai una donna? Perché questi maschietti idioti inizierebbero a fare degli apprezzamenti sessuali, perché noi siamo un po' deficienti in questa cosa, Marione. Questo un po' è vero. Donne, anche noi non siamo. No, vabbè, ho capito, ma noi sai benissimo dove andremmo a parare, la marmaglia andrebbe a dire delle cose veramente. Però vedi che dici marmaglia, attenzione Mila, che tu vabbè, ma scusa, Ma no, però uno che chiama, per insultare, insomma, questa cosa snoda anche tante contraddizioni del infame su internet, no? Io per esempio lascio sempre aperto gli insulti a tutti. Se tu vedi le pagine Facebook dei cosiddetti VIP, cancellano ogni momento di insulto. No, io lascio tutto. C'ho uno juventino che c'ha 9 follower da Bari, che appena segna il Milan mi dice delle robe terribili, se vince la Juve. E io lo lascio sfogare perché penso sempre che se non ci fossi io avrebbe bisogno di uno psichiatra. E quindi è una questione di... E quindi lo aiuto, se non si sfoga su di me può darsi che picchi il suo vicino di casa, e quindi molto meglio che si sfoghi su di me. E quindi ammetti che la tua segreteria telefonica la usi come elemento di psicoterapia? No, ho detto quello lì Juventino di Bari. Sfogatoi servono sempre. Ma certo, no? Ma infatti. Comunque, Aurora, devo dire che c'è un ascoltatore di Bergamo che mi dice: ma cosa ci fa Aurora con quella voce bella lì? Io da bergamasco chiederei al sindaco Gori di togliergli la cittadinanza bergamasca. Quindi ti vorrebbe un po' più verace delle valli orobiche, dici una bella frase. Boschi, che tanto gentile, tanto onesta pare. Dici una bella frase in bergamasco proprio. Un giudizio su Prodi in bergamasco. No, perché comunque a quelli la scassa lo no, stesso. Vabbè, perché quando mi emerge il dialetto si riemerge una dimensione autentica, primordiale, ancestrale, perché cade il tabù della allora lingua italiana. Un giudizio su Adinolfi in bergamasco. Un bel tosto. Toso, come si dice? No, Toso non si, no, vabbè, non si dice sete, Tosi, no. Non confondiamo Bagai, Tosi, Ignari, Cete. No. Sei proprio allo zero, no. Marione. Comunque sentite qui Benigni ieri sui 10 comandamenti. Io l'ho visto un po' a sprazze, non è che ho visto moltissimo, mi sono addormentato poi, ma non per Benigni, era anche molto affascinante il suo modo di raccontare. Ma Benigni che ci ha raccontato? Tutti i politici coinvolti si sono giustificati dicendo: sì, effettivamente forse ho sbagliato a scegliere alcuni collaboratori, ma erano insospettabili, chi l'avrebbe mai detto? Tutte personcine per bene, delicate, oneste, carognone, porco, cegate, lurido, o spaccapollici, o sventramonache, io dico, proprio insospettabili. No, io sventramonache, ovviamente se l'è inventato lui. Posso dire che quel Benigni di ieri è stato grandioso. Sono curioso di vedere i dati d'ascolto. È stata la lettura dei 10 comandamenti. Veramente. No, devo dire che io infatti avevo un sonno bestiale, ma era affascinantissimo il modo di raccontare. Straordinario l'incontro fa amore, intelletto, di una profondità. Magari sempre televisione così, quindi adesso ci sarà la moda a dire no Benigni, no, insomma, è stata una cosa meravigliosa. I dieci comandamenti sono stati una cosa bellissima. Il consiglio di vedere oggi la seconda parte sarà sicuramente sorprendente. Adinolfi che ricordiamo uscirà col quotidiano La Croce. Ma lì dai un editorialista Aurora Lussana. Per Aurora c'è sempre posto. C'è sempre posto. Dai Aurora, appunto, abbiamo 30 secondi, una ricetta veloce, dai una ricettina. Io Benigni non l'ho visto perché ieri sera ero alla cena della Lega della sezione di Cantù, e invece per stasera ho degli amici a cena, Capù de Mager come antipasto, che è una meraviglia. Sì. Sono le foglie di verza ripiene, una roba tipica bergamasca, costine con le verze. Fai soffriggere nel burro, nell'olio, un po' di cipollina, le costine tagliate a metà. E dopo 10 minuti ci metti dentro le verze per altri 30 minuti, un po' di aceto alla fine. Fantastico, ci è venuto già fame. E un abbraccione a voi. Ciao, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qua, sono le 7:18 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali e parleremo di Olimpiadi. Avremo ospite il direttore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, avremo con noi anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, perché Renzi ha detto le Olimpiadi siano italiane, quindi non solo Roma ma anche Napoli, anche Firenze, forse la Sardegna. Allora, queste Olimpiadi del 2024, mi pare un libro dei sogni. Oppure sognare a volte può anche aiutare a rinascere. Ne parleremo alle 8:15. Poi avremo ospite anche un sindaco di Santa Margherita di Belice. Sapete che si dice così? Belice. Il terremoto del Belice, non del Belice. L'abbiamo scoperto anche noi, sarà con noi perché ci spiegherà come mai gli emendamenti quest'anno per la prima volta non danno i soldi per il terremoto del Belice, per l'appunto. E lo scopriremo, e scopriremo se è arrabbiato oppure no. Questo alle 8:40. Ora andiamo a leggere i giornali. In questo martedì 16 dicembre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre con lo sprint del redditometro, controlli entro fine anno. Mentre le aperture sono un po' diverse, il Corriere della Sera ha un'anticipazione, le indiscrezioni sul programma del presidente Juncker oggi al Parlamento europeo. Europa è ora di cambiare. Juncker, riesame delle regole su riforme e funzionamento del patto di stabilità. Apre su questo il Corriere della Sera. Per Repubblica, corsa al Quirinale, Renzi mette in campo anche la carta Prodi.

Il magistrato ha scritto con una motivazione shock: la madre di Cuffaro ha demenza senile e dunque non riconoscerebbe neanche il figlio, e per cui negata la visita al carcere. Se questa è la motivazione, io c'è da rimanere costernati a dir poco. Vabbè, è arrivata per Ferrero Hervé Peretta, la squalifica a 3 mesi per il famoso filippino a Toir. Sapete che gli ha detto, gli ho detto a Moratti: cacciate via il filippino, che in realtà poi è indonesiano. Comunque, 3 mesi di deferimento al presidente Buccellato, che dice: siamo su scherzi a parte. E vabbè, che dobbiamo fare? Siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, un articolo che andrebbe commentato col celebre urlo di Giannino: basta! Basta! Basta! Ebbene sì, oggi la carta costa va all'ennesimo articolo. Dino Martirano, oggi sul Corriere della Sera, una pagina fitta, intera, sulla clausola che attiva l'Italicum, dunque la legge elettorale nel 2016. Ma chi se ne frega? 24 mattino. Siamo qui, sono le 8:19 minuti, anzi 8:20 minuti, allora la vulgata un po' sui giornali, quasi tutti i giornali è questa: siamo italiani, le inchieste le leggiamo, le statistiche, le classifiche le vediamo, la corruzione un po' dilaga, e perché dovremmo aggiungere un'altra occasione come quella delle Olimpiadi per aggiungere ruberie a ruberie? O ancora, tutti i giornali oggi ricordano che non c'è grande evento sportivo, Olimpiadi, campionati del mondo di calcio, campionati sportivi di qualsiasi disciplina in cui non ci siano state inchieste, corruzioni di funzionari. A questa stregua che si fa? Aboliamo le Olimpiadi, non le assegniamo più, decidiamo che l'Italia per principio non deve mai partecipare a nessun tipo di queste manifestazioni perché inevitabilmente va a finire con inchieste e soldi che spariscono? Renzi invece, Renzi la pensa così: il nostro paese troppo spesso sembra rassegnato, sembra aver ridotto la propria ambizione. Può succedere di perdere, ma quello che non è accettabile è che non ci si provi. Quello che non è accettabile è che, rannicchiati, rinunciamo a giocarci la partita. Allora, se avete capito, parliamo delle Olimpiadi 2024. Roma si candida, lancia la propria candidatura, allargandosi anche ad altre città, per esempio anche Napoli, di cui saluto il sindaco Luigi De Magistris. Buongiorno, sindaco. Buongiorno a lei. Lei è contento? Cioè, sarebbe disponibile? Qualche tempo fa aveva detto perché no, Napoli potrebbe ospitare qualche disciplina. Ma sicuramente, quando mesi fa uscì fuori questa notizia, io dissi che Napoli, così come nel 1960, è una città pronta e che si presta naturalmente a poter ospitare, soprattutto con il suo mare, con il suo golfo, le discipline acquatiche. Quindi, qualora il paese dovesse decidere di seguire questa strada, Napoli è pronta ed è una città che anche in questi anni ha dimostrato di saper organizzare e ospitare eventi sportivi di livello internazionale importanti, dalla Coppa Davis al Giro d'Italia alla Coppa America. Quindi, se il paese decide di candidarsi, ovviamente noi ci siamo. Ma cosa risponde a chi dice sarà un'altra ruberie? Ha visto che circolano anche in rete già le satire con le 5 manette al posto dei 5 cerchi olimpici. Come dire, aggiungiamo occasione per rubare? Io invece, appunto, voglio tornare su questo punto. Detto che Napoli è una città sempre pronta, faccio una riflessione di carattere generale. La prima, che mi sembra un'operazione anche mediatica del Presidente del Consiglio, che in un momento di grave difficoltà sul tema della depressione morale e della corruzione nel nostro paese, lancia, con le parole che abbiamo ascoltato, un paese che non deve rinunciare a volare alto. Su questo, come principio di carattere generale, io sono d'accordo. Cioè, un paese non può dire: noi non siamo pronti a candidarci a un evento che fa parte della storia dell'umanità come le Olimpiadi. Detto questo, l'Italia si presenta malissimo come candidatura, perché durante la presidenza del Consiglio Renzi abbiamo avuto, per esempio, 3 episodi che ci fanno preoccupare, collegandoli alle Olimpiadi. Penso a Expo, le indagini, Mose, indagini, e adesso Mafia Capitale. E nello stesso tempo il governo non ha messo strumenti in questi mesi in grado di prevenire quel rischio che molti molti vedono, cioè quello di prevenire che un evento di questo tipo possa appunto consentire un consolidamento dell'infiltrazione delle mafie, malaffare e corruzione. E aggiungo un altro tema che a me è molto caro da sindaco, e così come me penso anche tantissimi altri colleghi, che oggi probabilmente quei 6, 8, 10 miliardi di euro che si dovrebbero investire con i poteri commissariali che piacciono tanto al Presidente del Consiglio, forse se sistemassimo un po' le scuole, il dissesto idrogeologico, altri edifici monumentali e storici sarebbe del nostro paese, sarebbe forse meglio, e poi potremmo pensare tutti insieme alle Olimpiadi, perché poi parliamo del 2024. No, ma è chiaro. Io allora le voglio presentare il direttore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro. Buongiorno direttore. Buongiorno al sindaco di Napoli. Citate proprio questi 10 miliardi per i giochi e titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano: le mafie già si allenano, rischiamo il record olimpico di mazzette. Allora, direttore Padellaro, ma che è? Dobbiamo allora rinunciare per principio, noi che siamo in Italia? No, per carità, non dobbiamo mai rinunciare per principio, saremo tutti felici se le Olimpiadi si potessero svolgere in Italia, ricordando le Olimpiadi del 1960, che furono una grande occasione anche di promozione del nostro paese nel mondo. Purtroppo quello che io noto in prima battuta è la superficialità con la quale si fanno queste operazioni. Dunque, l'ha detto già il sindaco di Napoli, c'è un'operazione mediatica evidente. Renzi è uno che questo lo fa perché è il suo modo di fare politica. Momento di difficoltà per le cose che sono state dette, tutte le indagini, il paese che è azzoppato per vari motivi, lui cosa fa? Dice Olimpiadi. Ora, le Olimpiadi si possono anche fare, per carità, ma si fanno avendo, nel momento in cui ti candidi, già un impianto, un qualcosa che ti consenta di dire noi siamo in grado di farlo, perché per esempio 10 miliardi sono più o meno la cifra che è stata spesa da altri paesi. Noi questi 10 miliardi li possiamo prendere, li possiamo investire in questo modo. Secondo, possiamo creare una struttura che non è quella del CONI sfasciato come tante strutture pubbliche. Insomma, quello che colpisce negativamente è il modo cioè dice, è stato fatto un po' così, però da dire che Renzi vorrebbe porre Cantone a capo, come dire, dei garanti. Cantone deve fare tutto, il Presidente della Repubblica per l'anticorruzione, l'uomo che risolve i problemi, no? Però è interessante questo modo, cioè io vorrei chiedere a De Magistris se può riporsi nei panni del magistrato a dire come si fa una cosa del genere controllando che non vengano fatti a monte subito delle ruberie. Mettere un Cantone a capo dei garanti del Comitato Olimpico Italiano potrebbe essere una soluzione. Ma lui, il Presidente del Consiglio, è molto bravo a fare queste operazioni di distrazione di massa. Io da magistrato prima e oggi da sindaco devo dire che il Presidente del Consiglio sta sulla strada completamente sbagliata anche dal punto di vista normativo, perché lui dovrebbe semplificare la normativa ordinaria, ad esempio quella degli appalti, che è ancora molto farraginosa, e non andare, come a lui piace invece molto fare, basta vedere le ultime leggi, compreso lo sblocca Italia, verso i commissariamenti. Ricordiamoci che i commissariamenti sono quei poteri speciali che poi portarono a delle inchieste molto insidiose, come la Protezione Civile S.p.A., che noi tutti abbiamo conosciuto, che hanno portato a delle tragedie sul piano corruttivo e anche mafioso nel nostro paese. Quindi io sono molto preoccupato, perché il Presidente del Consiglio ha creato uno strumento, diciamo, complessivamente normativo, che oggettivamente, al di là delle sue volontà, favorisce la penetrazione dei grandi apparati mafiosi e corruttivi qualora ci fosse un evento di questo tipo. Poi fa l'operazione mediatica e dice al paese non vi preoccupate, perché noi siamo un grande paese, e poi mettiamo Cantone, tutto a posto. A parte che le indagini, vorrei ricordarlo, nel nostro paese su corruzione e mafia, con tutto il rispetto per Raffaele Cantone, le fanno i magistrati e le forze dell'ordine, e sarà stato anche sfortunato, ma da quando c'è Renzi e Cantone le inchieste, vediamo, le ho citate prima, Expo Milano, Mose Venezia, Mafia Capitale, forse sono, non voglio dire aumentate rispetto al passato, ma insomma un'indagine come quella Mafia Capitale non si vedeva da molti anni nel nostro paese a questi livelli. Però cosa fa? Allora lei si candida, cioè è contento da sindaco di Napoli, però dice... Guardi, mi Milan, noi parliamo del 2024, io non voglio fare una battuta e dire non ci siamo arrivati, come si dice al 2020. Noi abbiamo un tema molto chiaro, noi non abbiamo risorse per sistemare le scuole della nostra città, non abbiamo risorse per sistemare le strade, non abbiamo risorse per sistemare i monumenti, va bene la candidatura alle Olimpiadi, però magari lanciamola, come dire, in un modo diverso e non, come dire, come operazione di estrazione di massa, perché un paese effettivamente, come si candida a vincere i mondiali di calcio, lo può fare, ma oggi io vorrei che il mio Presidente del Consiglio, cioè il mio nel senso del nostro paese, ci disse, soprattutto a noi sindaci, quindi alla popolazione di periferia, come sono i sindaci, sì, rispetto al potere centrale, gli strumenti per non far crollare il paese, altrimenti noi alle Olimpiadi non ci potremmo mai presentare, non la vinceremo mai. Ma guardi, che sulla questione di dire ci saremo, ecco, lei l'ha detto in napoletano, chissà se ci dobbiamo arrivare nel 2024, ma è una questione abbastanza seria. Però vorrei far sentire al direttore Padellaro quello che ha detto il sindaco Ignazio Marino, sindaco di Roma, proprio sulle Olimpiadi. La mia amministrazione ha tagliato 550 milioni di sprechi, adesso abbiamo un bilancio sano, abbiamo tutte le carte in regola e poi alle spalle 3.000 anni di grandissima storia. Insomma, bilancio sano, 3.000 anni di storia, sembra tutto fatto. Padellaro, voi ricordate oggi sul Fatto Quotidiano che proprio dalle Olimpiadi del 2004, il centenario, iniziò il disastro greco, il disastro economico della Grecia. Davvero parlare di un 2024 quando non sappiamo se ci sarà all'orizzonte, che ne so, il commissariamento della Troica è troppo? No, per carità, abbiamo citato Atene, non per fare i gufi, attenzione, sempre, no, ma lì qui c'è un tema importante. Le Olimpiadi, come tutte le grandi manifestazioni sportive, come i campionati mondiali, europei, di calcio, non sono più quel volano che sono stati in passato, no, per rilanciare l'immagine dell'economia di un paese. Adesso sarebbe troppo lungo fare l'elenco di tutti i flop, a parte la Grecia che è il caso più clamoroso, tant'è vero che le istituzioni sportive internazionali stanno pensando a progetti diversi. Per esempio, i prossimi europei di calcio si svolgeranno in vari paesi, perché ovviamente nessun paese da solo ha, stiamo parlando di paesi come la Germania, l'Olanda, la Francia, hanno da soli le strutture e gli investimenti per avere affrontare questo impegno. Marino è simpatico, se bisogna dirlo, perché lui è un miracolato dalla banda della Magliana, perché lui stava per essere cacciato via. Forse per colpe non sue, poi è arrivato Ercecato e lui si è diventato intoccabile, soprattutto per il Partito Democratico. Adesso però che Marino ci voglia far credere che Roma è prontissima perché c'ha 3.000 anni di storia a affrontare questo. Ma che dovrebbe dire enorme il sindaco di Roma? Dovrebbe dire no, da sindaco le Olimpiadi mai, qui è un disastro. No, non dovrebbe dire questo, dovrebbe usare toni meno enfatici, dovrebbe dire, come sta dicendo, devo dire con grande onestà intellettuale, il sindaco di Napoli, benissimo, vediamo come. Cioè dire va bene, però risolviamo i problemi. Ma questo è il modo giusto e anche credibile, non facendo, ripeto, delle spot che vanno sui telegiornali. L'altro argomento, infine, riguarda proprio quello di cui avete parlato, cioè la Cantone e tutte le vicende legate a questi grandi eventi. Allora, lei ricorderà, il sindaco di Napoli ricorderà, che quando l'Expo fu vinta da Milano ci furono dei festeggiamenti enormi, no? Prodi, la Moratti, allora sindaco, si abbracciarono, era una grande festa bipartisan. E oggi non dico che l'Expo venga vista come un incubo, ma insomma i problemi che sono nati sono tali per cui tutti incrociano le dita, Renzi per primo, e dicono che Dio ce la mandi buona. Ecco, non si può affrontare un evento di questo genere sperando nella buona sorte. Questo sì, però rientra un po' nell'essere rassegnati in maniera preventiva, di cui parlava prima il Presidente, o meglio ieri il Presidente del Consiglio. Per concludere, Sindaco De Magistris, lei come la giudica? Proprio una cosa da spot mediatico più che altro? Mi sembra di dire che insomma è un po' più critico il giudizio rispetto alle speranze di dire del rilancio del paese? Sì, io sono critico perché la vedo come ennesima operazione propagandistica mediatica del Presidente del Consiglio. E poi voglio aggiungere una cosa rapidissima a quello che diceva correttamente Padellaro. Una delle stagioni peggiori, per esempio, della nostra città di Napoli da un punto di vista di spreco del denaro pubblico e di opere compiute o fatte male, sono stati i mondiali del 90 nel nostro paese, se guardiamo come fu realizzato lo Stadio San Paolo, le tante occasioni perse. Quindi io credo che noi dobbiamo prepararci a essere un paese in grado di gestire in modo ordinario, senza supercommissari, senza superpoteri, senza commissariamenti, senza scorciatoie, il rilancio del nostro paese, a partire, diciamo, dalle persone che probabilmente ogni giorno fanno con fatica il proprio lavoro. Io credo che Renzi negli ultimi tempi stia facendo molta propaganda, questo è il mio giudizio personale. Allora, io intanto ringrazio il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il direttore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro per questa vicenda olimpiadi che ci porteremo avanti, visto che la candidatura ufficiale, poi l'assegnazione, sarà a settembre del 2015, quindi ci sarà un anno quasi scarso per vedere se l'Italia ce la farà a proporre la propria candidatura. Dopo la pubblicità parleremo degli emendamenti alla legge di stabilità, in particolare ieri abbiamo raccontato ci sono degli emendamenti che vengono infilati all'ultimo momento. Quest'anno per la prima volta non c'è l'emendamento per il terremoto della Valle del Belice. Come mai? E come mai? 24 mattino. Alle 8.40 allora Dino da Bergamo ci chiama per le Olimpiadi. Cosa vuole dire Dino? Sì, buongiorno Milan, apprezzo la sua trasmissione anche se ogni tanto mi fa arrabbiare tantissimo. Arrabbiare. Ma no, io voglio rendere, lo dico sempre, più consapevole, sì, informare, dica no, Dino, mia, però si arrabbia. Portare la mia testimonianza su come ha risolto il problema a Londra in occasione delle Olimpiadi il governo inglese, cioè gestendo tutti gli acquisti e gli appalti con piattaforme tecnologiche, quindi le famose aste online, sì, e gestite da una società italiana, in particolare bergamasca, sì, che lavora anche col governo inglese. Che fa? Lei Dino da Bergamo lavora nella società, forse? No, faccio parte del collegio sindacale, però non è importante, perché comunque lavora col governo inglese anche nel per la spending review, ma nella è una società conosciuta, ecco, in Italia col governo ovviamente, ma anche a livello locale non, insomma lei non dice si può fare, c'è una strada per cui si può fare. Allora, è un metodo trasparente, tracciabile, al di sopra di ogni sospetto, ovviamente è un sistema che in Italia non si può usare. Ah, ecco, ovviamente non è una cosa che funziona, Dino ci dice non si può usare. Va bene, la ringrazio Dino da Bergamo. Vorrei andare da Luca da Milano. Buongiorno Luca. Buongiorno Milan, una cosa molto veloce, riflessione personale, io volevo agganciarmi a quello che diceva De Magistris, ovvero il fatto che queste commissioni poi alla fine non sono andate poi così bene, visto che sono venuti fuori poi tutti gli scandali che abbiamo visto. In realtà io credo che se una commissione funziona bene ne vengano fuori di scandali, vuol dire che del marcio c'era e che questo marcio è stato... Ma guardi, però non è che la commissione ha trovato, cioè l'inchiesta, adesso c'è uno sfasamento anche di vicende, l'inchiesta di Roma la fa la procura di Roma, non è che la fa la commissione anticorruzione, e peraltro effettivamente non è che è venuto fuori tutta questa vicenda dell'inchiesta, ma è riferita molto al passato, forse magari perché c'è un nuovo procuratore Pignatone che vista l'esperienza della Calabria ha messo mano in quel marcio di Roma ed è uscita adesso, ma non è che è molto legata effettivamente alla questione della commissione anticorruzione presieduta da Cantone. Questo per correttezza, ma la ringrazio Luca. Vorrei però introdurre ora un sindaco che intanto ci spiegherà una cosa molto semplice. Anch'io pensavo, come molti che mi scrivono via SMS, che fosse la Valle del Belice, ma ho scoperto da ieri che è la Valle del Belice. Saluto il sindaco di Santa Margherita di Belice, Francesco Valenti. Buongiorno sindaco, è così, è corretta la pronuncia? Buongiorno a lei. Belice. Sì, diciamo sì, che anche è stato frutto del terremoto del 68, diciamo che oltre le case abbiamo perso anche l'accento. Ma perché? Cioè, si dice Belice, ma tutti hanno sempre detto il Belice, perché? No, adesso? Guardi, questo proprio del Belice è proprio nato con il 68, con il terremoto, e il Belice appunto diventò Belice, ma la dizione corretta è Belice, il siciliano è Birici, era il Belic degli Arti. Comunque, quindi è bellissimo, diciamo, da quando c'è stato il terremoto evidentemente che si sono accesi i riflettori, la gente non lo sapeva, hanno iniziato a chiamare la Belice, non lo sapeva, i suoi colleghi non lo sapevano nemmeno, esatto, per cui è nata la Valle del Belice in realtà. Allora, siamo nella Valle del Belice. Allora, perché abbiamo, l'abbiamo chiamata? Perché ieri abbiamo scoperto, per la verità, con devo dire un sospiro di, non dico di sollievo, perché sì, ma non perché vogliamo male ai terremotati del Belice, per carità, ma per la prima volta dopo anni non c'è un emendamento in legge di stabilità come prevede, come si era previsto negli altri anni, con soldi e fondi per il Belice. Lei è contento? No, immagino. No, guardi, io non sono contento, tra l'altro non è la prima volta che succede, per cui è già successo nel passato che non arrivavano soldi al Belice. Guardi, però mi creda, questa è l'occasione, è un'opportunità, forse per fare chiarezza, perché siamo qua in una grande difficoltà, quello di rappresentare quello che in questi anni è successo e quella che è ancora la realtà del Belice, che ancora oggi, mi creda, non penso che è responsabilità della laboriosa gente del Belice se c'è ancora, ci sono persone che dopo 50 anni devono ricostruire la prima. Perché ricordiamo che il terremoto fu del gennaio del 68. Se io non ero neanche nato, sono nato nel 70, caro sindaco. E allora c'è gente che dopo 50 anni non vede ancora, purtroppo, riconosciuto un proprio diritto, che è quello quantomeno alla prima unità immobiliare. C'è gente che per 30 anni ha vissuto nelle baracche disperando, povere Damianto, e questo Belice, o Belice, come è giusto dire, è diventato nell'immaginario collettivo come se fosse l'emblema, l'emblema un po' dello spreco, dove ogni anno noi italiani dovevamo ripagare con un conto. Ho capito, però sindaco, un po' è stato così, cioè quanti soldi sono arrivati in questi anni al Belice? Ma guardi, io le dico una cosa, c'è l'ultima, le do qualche dato così anche per farci comprendere, e l'ultimo dato che noi abbiamo a disposizione, tra l'altro un dato ministeriale, allora ministro Di Pietro, per cui penso anche per il lavoro che faceva prima, dovrebbe essere un dato serio, ha certificato nel 2006 che occorrevano per completare la ricostruzione del Belice qualcosa di 450 milioni di euro. Ma perché? Perché non erano arrivati abbastanza? No, guardi, io oltre, per quanto riguarda anche questo dato che lei mi chiede, guardi, c'è uno studio comparativo del 1995, lo diceva il dottor Monorchio, che il ex ragioniere dello Stato era costato, esatto, il ragioniere generale dello Stato, facendo delle comparazioni con terremoti, tra virgolette, magari forse più fortunati, dei soldi che aveva ricevuto il Belice rispetto ai soldi che avevano ricevuto altre zone d'Italia. Ahimè, io non voglio fare certamente qui polemiche con nessuno, per cui sarebbe realmente da sfatare questo luogo comune. Quando io le dico, specialmente per la ricostruzione, se io ho il diritto a ricostruirmi l'immobile, i soldi non fanno giri strani, vanno dallo Stato al Comune. Insomma, mi faccia capire, sindaco, quindi il Belice ha ricevuto troppi pochi soldi in tutti questi anni rispetto ad altre... Sì, ma guardi, ma il problema serio è non è tanto questo stipendio, questi emendamenti, cioè io penso che uno Stato serio dopo 50 anni che dovrebbe porsi il problema di regolamentare, di fare una legge dove mettiamo finalmente la parola fine, dove possiamo anche ridiscutere, possiamo anche riparlare se dobbiamo dare precedenza semplicemente alle prime unità immobiliari. Però quello che io ritengo sia veramente assurdo, parlare dopo 50 anni del terremoto, parlare del Belice come appunto anche dal tono, diciamo, come se fosse una liberazione. Io penso che invece è un grande. Beh, però se per la prima volta non sono stati dati dei soldi, ci sarà un motivo, cioè forse forse li abbiamo dati tanti in passato. Ma no, guardi, purtroppo io non posso essere d'accordo con lei, e poi non è certamente un merito se per la prima volta non hanno dato i soldi al Belice per le cose che io le ho appena rappresentato. Io ritengo che invece sul Belice vada fatta una discussione seria, pacata, rendendoci conto di quelle che sono le difficoltà del momento, di quella che è la crisi in cui versa l'Italia. Insomma, lei mi pare di capire che è deluso, ma ci sperate ancora o mai i giochi sono chiusi? No, sono chiusi. No, guardi, noi ci speriamo, noi siamo stati il giorno 9 ricevuti dal ministro Lupi, sì, una delegazione di sindaci dove per chiedere, sembra come se veniamo a fare la questa. Ma non ho detto rubare, sindaco, ho detto chiedere. No, chiedere, sì, però è come se ogni volta, ogni anno c'è questo rito di fare comprendere che ancora funziona così. Purtroppo funziona così. E speravamo appunto di, però come dicevo, non è tanto, mi creda, la questione dell'emendamento dei 10 milioni, dei 5 milioni, qui va messa la parola fine, ci vuole un tavolo serio dove si riparte dai numeri che l'allora ministro Di Pietro aveva dato, li ridiscutiamo, riguardiamo anche le quote di spartizione fra i comuni più o meno fortunati. Però una parola finalmente, questa triste vicenda, dove c'è tanta disinformazione. No, ma sindaco, siamo i primi e sono il primo a volerla chiudere. Io pensavo fosse chiusa quest'anno con i soldi non più dati, ho detto ingenuamente, non ce ne sarà più bisogno dopo 46 anni. Evidentemente non è così. Comunque, sindaco, torneremo a occuparci, vedremo se un emendamento zac spunterà prima dell'approvazione della legge di stabilità. Tante volte, sa, come i funghi di queste stagioni, le cose di questo genere accadono. Francesco Valenti, sindaco di Santa Margherita di Belice, grazie. Il traffico 24 mattino. Va bene. Allora, come sapete, è il momento in cui ci occupiamo anche di qualcuno che ci ascolta dall'estero, uno di voi al giorno. Ciao Italia! Siete pronti? Il nostro Ciao Italia oggi ci porta, aver ricevuto una mail straordinaria da parte di Domingos, che ci parla dall'Angola, da Luanda, capitale dell'Angola. Domingos, buongiorno! Buongiorno Milan. Come va? Chi sei? Spiegaci perché ci hai chiamato. Sei un cittadino dell'Angola che ha studiato in Italia, Domingos. È vero, sì, sono un cittadino angolano che ha studiato in Italia, a Roma di preciso. Vi ascolto sempre, ho l'Italia come la seconda patria, perché sono deditori sia della cultura intellettuale che anche della convivenza tra i popoli, che ho imparato molto nel corso degli studi che ho fatto preso a Roma. Ma è bellissimo, intanto complimenti, parli un italiano perfetto. Che cosa hai studiato? Come mai sei venuto in Italia? Ho studiato legge perché l'interesse mio era anche approfondire un po' il principio della legalità, e so che l'Italia ha un grande percorso su questo, la fatica ancora, ma sai che detto di questi tempi abbiamo una grande cultura della legalità, secondo te, in Italia? Nel passato hanno delle grandi fondamenta, e questo a noi ci interessa molto, perché io appartengo a una nazione che si sta rialzando da 40 anni di guerra circa, si sta sviluppando, c'ha grandi potenzialità, ma manca molto ancora la cultura della legalità. Ecco, questo a noi ci interessa molto, ci preme molto da quando ero bambino, e allora questa opportunità che mi ha dato la Chiesa locale ha fatto sì che andasse in Italia a studiare. Ma è bellissima. È bellissima questa cosa. Cosa fai di lavoro? Che fai adesso? Come hai applicato tutti questi studi nella tua vita? Ma io sono un legal advisor di una società, delle società che lavorano nel settore del petrolio, tra la Saipem e la Sonangol, qui locale, joint venture. Sì. E dirigo anche un centro di studi, la Populorum Progressio, che accomuna intellettuali angolani locali che hanno studiato fuori e che hanno questo interesse del lavoro volontario, di educare i giovani nella cultura della legalità. Insomma, aiutiamo anche le persone, indirizzare le persone non abbienti. Ma infatti quando ieri ti abbiamo contattato dalla redazione, ci hai raccontato che fai questo doppio lavoro, da un certo punto di vista straordinario, cioè da una parte il tuo lavoro appunto di legal advisor per molte società, però poi impieghi anche molto del tempo per aiutare le persone più in difficoltà, insomma, e questa è una sensibilità che ho intrapreso dai miei genitori, perché provengo da una famiglia molto povera, e se non fossero gli altri ad aiutarci non saremmo arrivati mai a dove siamo oggi. E quindi questa sensibilità le hanno anche altre persone che hanno avuto la fortuna, pur essendo appartenendo a famiglie povere, hanno avuto la fortuna di andare a studiare fuori. Quindi siamo anche dei vittori a delle persone forse che non conosciamo, non conosceremo mai. È bellissimo. Io non so se vi rendete conto, cari ascoltatori, ma in questo momento qui voi ci state ascoltando dalle macchine, siete magari presi con le vostre occupazioni dell'inizio giornata, ma stiamo arrivando in questo momento in diretta in Angola, no? da Luanda, Domingos. Ma ho letto un recente articolo sull'Angola che ci ha raccontato ovviamente un passato anche di guerra molto dura, ma è uno dei paesi africani che si sta maggiormente sviluppando, che ha maggiori potenziali di crescita, e soprattutto Luanda, è vero? È vero, verissimo, è effettivamente questo, è un paese che adesso da molto tempo il governo sta lavorando molto per cercare di mettere il paese nel posto che le compete nel concerto delle nazioni, ma bisogna molto attrarre degli investimenti dall'estero, dall'Italia soprattutto, perché l'Italia oltretutto è stato il secondo paese che ha riconosciuto la nostra indipendenza, quindi abbiamo... C'è questo legame anche, esatto, con l'Italia. Ma tu che si racconta lì dell'Italia? Come ci ascolti tu intanto? Ci ascolti su internet, in live streaming? Sì. Ho scaricato il... come si dice? Io l'app. Non sono molto buono. Esatto. E ci ascolti così. E che pensi dell'Italia da lì, visto che immagino hai questo legame molto forte? No, come ho detto, sento l'Italia come una seconda patria, quindi mi interessa molto il tuo programma, ad esempio quello che seguo di più, perché soprattutto la mattina, perché mi dà una panoramica su quello che succede tramite la lettura dei giornali, mi dà una panoramica di quello che succede, quindi mi tengo anche aggiornato su certi versi, perché poi anche io ho tre figli piccoli, ma che sono nati in Italia e ogni tanto loro si sentono appartenenti, quindi mi chiedono notizie. Beh, ma è bellissima questa cosa. Allora, Domingos, noi ti mandiamo un grandissimo abbraccio, che arrivi lì fino all'Angola, che dista quanti chilometri? Abbastanza, perché siete nel profondo. Otto ore di viaggio in aereo. Un abbraccio ovviamente a tutta l'Angola, Domingos, che è stato con noi. Mille. Ci ha mandato anche una foto che metteremo sul profilo Facebook su 24 Mattino. Mandatela anche voi e scriveteci 24 Mattino e radio24.it se ci ascoltate dall'estero. Ciao a tutti, ci sentiamo domani, 6:30.